Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Vabbè, mai successo nella storia di Radio Onda Rossa, forse. Almeno nella mia breve storia di cominciare puntuale. Vabbè, doveva mancare il Mortimer. Ore 21:01. A inizio una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Ricordiamo i contatti della radio. E iniziamo dal sito raggiungibile a www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale rimanere aggiornati attraverso le corrispondenze che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle trasmissioni. Nonché potete ascoltare la diretta andando a cliccare su Ascolta. Ci abbiamo una paginetta tutta nuova dove poter andare a cliccare, quindi su Sostieni. Quindi la regola è questa. Inizia Do It Yourself Invasion o altri programmi della radio. Andate a cliccare su Sostieni. Sottoscrivete e noi continuiamo a trasmettere. Facile, no? Are you ready, food? Start. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. E potete sostenere questo progetto libero dal 1977. Attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. L'ho detta l'email di redazione? Boh, vabbè. ondarossa@ondarossa.info. Nonché potete scrivermi a fantasma@ondarossa.info o l'email difficilissima che è diyinvasion@autoproduzioni.net. Vabbè, la cambieremo, eh. Il telefono è sempre lo 06 49 1750. Gironi infernali a suona per sempre. Come funziona? Se gradite quello che passiamo, componete lo 06 49 1750, fate un trillino e mettete giù. Non ci offendiamo, perché lo prendiamo come un complimento, insomma un apprezzamento di quello che ascoltate. Dalla grazia di Dio. Dyer. Bene, molto bene. Vabbè, io inizierei giusto per rompere il ghiaccio con un pezzo di un gruppettino che qualcuno qui presente, che andremo più tardi a presentare, ha avuto il piacere, insomma, di assistere il concerto. Strisciano i serpenti delle anime dannate. Quindi li abbiamo visti la settimana scorsa a Roma per il loro tour d'addio. Il Final Assault. Perché da qui nessuno mi salverà. Con il pezzo Survive, loro sono i Nuclear Assault. Everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Questo pezzo lo dedichiamo di cuore a Massimetto. Dai, a Massimè. Doom, Police, Bastard. vabbè, l'avevamo anticipati la settimana scorsa. Poi per questioni di tempo non li abbiamo trasmessi. Questo è sempre un pezzo live registrato al Macera Fest di Carpineto. E loro sono i Pandemonium Carnival con Fido. Bella! Questo è l'ultimo pezzo. Volevamo ringraziare tutti quelli qui presenti. Grazie per essere venuti e per essere rimasti. Volevamo ringraziare Antonio e Pamela per aver organizzato tutto questo. E a tutti voi ancora grazie. Questa è Fido, è la vicenda di uno zombie controllato dagli umani che poi si innamora di una donna e ci sposano anche. Ok, Fido. Beh, noi ci proviamo anche come dimostrazione che questa radio non campa d'aria. Beh, quindi insomma non vi lamentate, non delegate, partecipate alla vita di questa radio, no? Non è che le puntine si comprano da sole, vengono qua e bussano, ciao, volevamo lavorare per i vostri piatti. Bella, eh? Marta, no, ma che, grazie del supporto. Quindi insomma per sostenere questa radio partecipate alle nostre iniziative, sottoscrivete. Come è venuto a darci una mano questa sera l'ospite misterioso che andiamo svelando. Buonasera. Ciao a tutti. E questa sera abbiamo abbiamo ospite Lady Grime. E no, abbiamo ascoltato un pezzo dei Pandemonium Carnival proprio dal Macera Fest. E al Macera Fest c'è stato proprio Lady Grime. Ebbene sì. Che metteva due dischetti, insomma, bella situazione, tra i monti. Sì, abbastanza carina, fresco, in montagna, bei concerti. Bella atmosfera. Sì, bel DJ set, belli gruppi, ci siamo divertiti tantissimo, soprattutto siamo stati al fresco. Insomma, meno 10 gradi fanno piacere, insomma. Si stava con la felpetta, quasi schiumava, quindi... Sì, no, stavamo raccontando alla... Ci siamo refrigerati un po'. Certo, poi insomma stavamo raccontando a microfoni spenti invece il concerto del Nuclear Assault che aveva temperature allucinanti, insomma. Mamma mia. C'è chi ci è rimasto male, insomma, vabbè. Abbastanza. Allora, aspetta, allora... Torno subito. Mentre sistemavamo dei fischi... E Lady Grime, quindi oltre che andare per Monti a proporre il suo DJ set, ma che dopo questa presentazione vogliamo cominciare a far capire chi ci ascolta di cosa tratta, cioè in che generi tratta il tuo DJ set? Allora, intanto domani sera avrò il DJ set con Mister Nessuno al Malatempora, dove questa sera avrete un assaggio dei pezzi che metteremo e domani sera potrete venire lì ad ascoltare i pezzi di tutta la serata. E noi mettiamo punk hardcore 80 italiano, punk rock, punk hardcore e crust e anche un po' di metal. E volevo iniziare con un pezzo, ovviamente punk, The Subhumans e Joe Public. Dai. Nel frattempo proviamo a mettere un altro dischetto, Lady sì, Grime. Certo, come detto prima, lo split di questo fantastico 7 pollici flex intitolato The Dirty Rotten Power ha anche come secondo disco, come primo perché sono tutti e due fantastici, Hero Power, e andiamo a mettere un bel pezzo di Hero Power. Dai. We'll be right back. Intanto abbiamo pronto un altro 7 pollici, perché Lady Kramer sta passando unicamente vinili 7 pollici. E qui vabbè, ma insomma, no, parliamo pure di questa cosa qua. Sì. Vabbè, ma non, cioè, con calma. No, che io ho avuto modo, insomma, di osservarti tra i banchetti, sei bella agguerrita, insomma. Se vi ritrovate tra i banchetti dei dischi e c'è Lady Grime vicino e avete in mano un vinile, insomma, magari è rimasto solo quello, cioè, non contate di prenderlo voi, perché fa un bel lavoro di ricerca anche con gomitate abbastanza violente. Quel vinile lo prende Lady Grime, eh? No, vabbè, no, dai, ma non è vero. Ancora per quella storia sette pollici. Sì, ancora per quella storia lì. Non me lo diremo di che cosa si tratta. No, non lo diremo, perché un giorno io l'avrò e lo manderò qua. Sì. Vabbè, insomma, no, diciamolo. Sei una di quelle rimaste che acquista i vinili. Sì, sempre solo vinile e non ho CD, perché mi fanno cagare veramente tantissimo. Secondo me sono inutili. A questo punto è meglio mettere tipo una pennetta e sentirsi la musica. Certo, poi se sono dei CD comunque storici, quello è un discorso, ma mettere dei CD masterizzati secondo me non ha né un'utilità e né un pregio. Però comunque non vanno sottovalutate tipo anche le persone che mettono della musica in CD, perché mettere musica è sempre comunque far sentire alle persone un qualcosa che non conoscono, e queste persone potrebbero in qualche modo andarsi a documentare su quel gruppo e cominciare a comprare della musica. E quindi questi vinili dove l'hai presi? In giro sempre per concerti? Io ormai sono diventata abbastanza vecchietta, perché insomma i miei anni me li sono fatti. Sono circa 20 anni che li ordini su Amazon? Giro. Sicuramente, perché trovo degli sconti. No, ci sono alcuni vinili che praticamente, ahimè, hanno anche un costo molto alto, perché purtroppo sono diventati di nicchia. Infatti, se parliamo dell'autoproduzione, un disco di Negazione che c'era scritto non pagare più di 3.000 lire, adesso purtroppo costa dai 100 ai 200 euro. Ragazzi, con due zeri. Vabbè, però anche per questo motivo è importante sostenere i gruppi giovani, i gruppi della scena underground attuali, no? Sì, certo, perché così tipo comunque possiamo andare a comprare i loro vinili che costano ancora adesso 3 euro, 5 euro e comunque pubblicizzarli, perché sono comunque ragazzi con dei gruppi nuovi che fanno della musica, e meno male che fanno ancora della musica punk hardcore. E tra l'altro penso, cioè, ultimamente insomma stanno uscendo bellissime cose registrate pure decentemente rispetto agli anni passati. Che al tatto vinilico la consistenza mi sembra abbastanza buona, non è un vinile che è scadente, suonano bene, le registrazioni sono fatte abbastanza bene, i ragazzi si impegnano e piano piano insomma vengono promossi. Io penso anche in questa radio tipo, insomma, cercheremo di mandare i loro pezzi e farli conoscere. E ci abbiamo pronto un 7 pollici dei Pischelli, giusto? Sì, questi sì, sono proprio giovani, soprattutto perché i componenti, adesso lo sentirete, sono di vari gruppi dei Pischelli molto giovani, che nella storia hanno comunque... Cioè fatto... il gruppo è giovane? Il gruppo è giovane, la musica anche è giovane. A voglia. Per spettatori vecchi però. Sì, no. Vabbè, no. No, abbiamo avuto il piacere di organizzare a sostegno di Radio Onda Rossa il 26 giugno scorso un'iniziativa all'Atnia. Mi stanno distraendo con degli sguardi magnetici. Un saluto agli apostati che hanno occupato già la radio. E quindi abbiamo avuto il 26 giugno la SNIA insieme a Nofu e Razza Parte, i The Vile, sì. E no, bella atmosfera. Sì, no, l'età media forse era un po' alta. Sì, abbastanza, dai 50, 55. Però è stato bello. Diciamo che però Rat se li porta abbastanza bene, ancora spingono come animali. No, bellissime. Vabbè, persone. Dire. No, sentiamoceli. Infatti. Dai. Yeah. vabbè, intanto ringraziamo Pablo di Apostasia. Pablo. No, vabbè, giustamente conosce. Strumenti, cioè il mixer generale ormai è come se fosse suo figlio, quindi praticamente sono vent'anni, sono vent'anni di Apostasia. Ho posizionato in modo tale che non si senta lo scricchiolio. La sapienza. Vabbè, insomma, questo giusto per darci lo stimolo a continuare con Lady Grime. Magari in settembre ci organizziamo meglio. Vi promettiamo che l'attitudine sarà la stessa, ma i suoni saranno migliori. Ci abbiamo pronto qualcos'altro, Lady Grime? Sì, abbiamo pronto un altro 45 giri, un altro 7 pollici di un gran gruppo italiano. Loro sono di Latina. E che ne so, andiamo ad ascoltare il pezzo, perché non ho niente da dirvi su di loro, perché penso che li conoscete abbastanza bene, anche meglio di me. Scam of Society, dai, Radio Onda Rossa. E salutiamo tutti i componenti degli Scam of Society. Qualcuno suona ancora in giro, in altri progetti. Alessio con Misanthropus. Grande Gabibbo. Bella. Qualcun altro in giro a spillare birra. Insomma, veramente un grande gruppo. E passiamo spesso qui da queste parti. Scam of Society, questa era Violenza Legale. Noi continuiamo con il DJ set di Lady Grime. Il prossimo dischetto sono un gruppo hardcore anni 80 italiano, e sarà uno di una serie di gruppi che, se mi inviteranno di nuovo qui a fare il DJ set, metterò, e che domani vi assaporerò assaporerò tipo questi dischi al Malatempora insieme con Mister Nessuno. E ragazzi, che dire, i Peggio Punks. Scemo. scemo, scemo, scemo. Abbiamo un collegamento, un nostro. Ci senti? Ci senti bene? No, ok. Ci eravamo preparati questa sera con Lady Grime qualche pezzo da passare in presentazione di un'iniziativa che ci sarà questa domenica. Ce la vuoi presentare? Sì, allora questa domenica ci sarà il Push Hardcore Fest nella nostra zona, cioè nella zona di Viterbo, che è la terza edizione che facciamo. E, vabbè, diciamo come ovviamente nel senso noi lo presentiamo come il concetto degli MDC a Viterbo, perché comunque saranno loro come ospiti più tutti gli altri cinque gruppi sei gruppi che affiancheranno insomma loro, che sono Affronto, che è un nuovo gruppo della nostra zona, più Carlo Dunga da Firenze, noi no prove, io sono chitarrista, dai, Ramiro, più Naid, altri viterbesissimi, Vibratacore e Tear Me Down, che non sono più di Viterbo ormai, oramai no, praticamente, perché a lungo andare insomma si sono spostati, più o meno chi stava prima a Viterbo si è spostato e più hanno aggiunto nuovi membri all'interno insomma del gruppo. Ma come siete riusciti a catturare gli MDC e farli passare per Viterbo? Ma gli MDC a farli passare per Viterbo fondamentalmente per la fortuna che sono venuti diciamo in tour europeo, quindi abbiamo saputo di questa cosa, sapevamo che comunque cercavano date in centro Italia, sapevamo che cercavano tra Roma, noi diciamo abbiamo cavalcato un po' l'onda, cioè col fatto che comunque adesso questa sarebbe la terza edizione di questo festival hardcore estivo che facciamo qui in provincia, abbiamo deciso perché non tra virgolette alzare il tiro e non creare qualcosa di molto molto più grande rispetto agli anni scorsi e chiamare questo gruppo insomma dall'America, da Austin, San Francisco, Austin. Senti, le due scorse edizioni dove sono state fatte? Sempre a Viterbo? Sempre nello stesso posto, è un posto appena fuori Viterbo, diciamo una via che si prende da casa, quindi tra Viterbo e Vetral, ecco, adesso per chi conosce la zona, comunque sta veramente a un chilometro da proprio Viterbo centro. Ma delle indicazioni magari per chi viene da Roma? Allora, per chi viene da Roma, per chi prende la Cassia si fa tutta la Cassia e poco prima di arrivare a Viterbo, a parte nel senso di strada, è strada Filante, si trova anche sul navigatore, se non sbaglio strada Filante numero 7, tra l'altro adesso non vorrei di niente, comunque poi se cercate l'evento su Facebook trovate tutte le indicazioni scritte precise. Comunque per chi viene da Roma è poco facendo la Cassia e poco prima di Viterbo si trova sulla sinistra, ci sta Misericordia con le ambulanze, e subito a destra c'è una strada che si prende con una curva. Sembra fatta apposta, cioè, no, sì, non speriamo di no, in realtà via, comunque ogni evenienza mi fa stare vicino. Comunque si prende questa stradina, una curva a gomito, si percorre per una chilometrata, non di più, e poi lì comunque c'è sulla destra c'è l'indicazione per il concerto. Per chi viene da Viterbo prende la Cassia in direzione Roma Vetralla e dopo, appena uscita da Viterbo, dopo 500 metri sulla sinistra, è uguale, prende sempre strada Filante e diciamo è arrivato. Comunque poi sì, su Facebook ci sono indicazioni scritte per filo e per segno con tutta la posizione, quindi poi qualsiasi cosa, insomma, se avete i nostri contatti, che sono quelli che insomma trovate online o per chi ci conosce, basta chiedere, insomma. Senti, ma invece come orari, da quando allora, si inizierà? Sì, questa è una cosa importante, col fatto che il concerto è di domenica, noi ci teniamo insomma a ricordare il fatto che comunque il concerto inizierà presto, perché anche tra di noi organizzatori comunque il giorno dopo si lavora e quindi non possiamo fare i 5 di mattina, eppure per la gente insomma che ancora meno chi viene magari da Roma. Esatto, ma anche chi viene ancora più da fuori magari, certo. Non solo da Roma. Il concerto inizierà verso le 6 puntuale, vi dico adesso, non so, in gruppo con la scaletta uscita, quindi suonerà. Fermati però, no, perché sì. ti sentiamo a tratti. Ah, ok, mi sentite? Sì, adesso sì. Ah, ok. Non dovete rimanere, vabbè, il concerto inizia adesso, quindi sul presto, perché niente, no, non... comunque sì. Niente? Ma guarda, prova a spostarti magari... prova a spostarmi un attimo, come sentite adesso? No, adesso benissimo. Allora, proviamo così. Allora, il concerto inizierà verso le 6 e anche gli NBC non suonano per ultimi, quindi non suoneranno tardissimo. Poi, ovviamente la serata andrà avanti, ci sarà DJ mentre dopo, durante, insomma, Lady Grime, quindi poi comunque sì, per chi vuole fare serata non c'è problema. Si mangia, si beve, c'è pure un aperitivo perché arriva insomma sul presto. Poi comunque noi ricordiamo sempre per supportare anche tutti i gruppi che vengono a suonare. Alle 6 inizia il concerto, quindi noi comunque tanto dalla mattina siamo lì, quando volete venire venite, poi per chi si vuole fermare c'è pure free camping, se ha la fortuna il giorno dopo di non lavorare può fare insomma serata con noi tranquillamente. Benissimo, vabbè, noi lo dico adesso, no? Saremo presenti sia col banchetto di Radio Onda Rossa. Perfetto, siamo contentissimi. E non che proveremo insomma a registrare qualcosa anche lì. Ah, secondo probabilmente anche noi in realtà. Ok, quindi, ok. Quindi poi semmai ci sentiamo, ci possiamo anche scambiare. Benissimo, benissimo. È quello che cerchiamo sempre, soprattutto qua in questa trasmissione, insomma. Va bene. Va bene. Allora, niente, ricordiamo l'appuntamento questa domenica. Sì, esatto. Questa domenica dalle più o meno le 6 di pomeriggio. Anche prima voi venite, tanto ci trovate, le indicazioni comunque cercate tutto sull'evento Facebook, abbiamo cercato di essere il più precisi possibile. E niente, vi aspettiamo numerosi, noi siamo solo che contenti insomma se la gente accorre. Benissimo. Al nostro evento noi ci saremo sicuramente, dai, ci vediamo domenica, venite tutte e tutti a supportare la scena punk di Viterbo, il Too Short Core Fest e anche sì. Oltre e sì. Anche oltre, è certo. Dai, un abbraccione, a domenica, grazie mille anche a voi, a tutti, una ciao. Buona trasmissione, grazie, ciao ciao, ciao, ciao. E ci abbiamo pronto un pezzo dei Naid, da Viterbo, Grindcore. Li vedrete domenica. Mando. Vai. Vai, Naid. Faccia avrò con gli occhi chiusi, gli specchi non servono a niente. E dopo Naid l'ha preso, l'ha portato giù all'inferno. Stiamo preparando il disco dei Tear Me Down. Sempre rigorosamente su vinile. Tear Me Down. Il pezzo è Germe. Yeah. E andiamo a chiudere la presentazione del Tuscher Core Fest dopo i Tear Me Down con gli MDC Million Dead Cops. Che ci abbiamo pronto, Lady Crime? Abbiamo un pezzo divertente, molto carino, Chicken Squeak degli MDC, che è, come ho detto prima, divertente, ballabile, e spero che farò sorridere tutti coloro che lo stanno ascoltando. E noi ci vediamo domani al Malatempora e domenica a Viterbo. Un bacione a tutti. Dai, grazie. Just plain chicken, yeah.